Caccia all'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno, bentornati. Parleremo di trappole terminologiche, di versioni e conversioni, di vittoria tra virgolette, se c'è tempo, dell'applicazione in politica delle regole dell'abate chitarrella.